Michele il falegname. In estate io vidi tre volte Ada. Una donna alla villa andare in su e in giù con una espressione indimenticabilmente triste. Quando la interrogai, mi rispose: nessuno prega per me. Alle altre domande rimase muta. Allora non mi era ancora stato detto che io dovevo pregare con loro. Per questo l'apparizione durava sempre poco. Pregare è anche un sollievo per me. Dopo ho meno paura. 11 marzo 1923. Ero appena a letto alle 11 che qualche cosa entrò. Pensai che fosse mia sorella e non accesi subito la luce. Ma poi sentii subito che cosa era. Sotto la porta c'era il falegname Michele, un ex sacrestano. Non so quando egli morì. Gli dissi subito: «Si fa legname Michele, che vuoi da me?» Allora fece un grido e sparì. «Ora è il mio bambino che devo curare. Adesso viene tutte le notti, fa paura, perché non si sa che cosa fare con lui». Era rimasto una mezz'ora dalle 4 alle 4 e mezza. Cammina sospirando per la stanza, non ha un bel aspetto. Ma il Signore mi aiuterà. 13 marzo alle 11:30 e di nuovo qui. Io dico: sabato viene celebrata una santa messa per te, lasciami in pace. Che cosa hai fatto? Rispondi una buona volta. Furto sacrilego. Grida. Io? Posso aiutarti. Egli fa un cenno col capo e sparisce.